Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Bara skiftir ekki máli fyrir mig og þetta hér sé ekki standardinn sama þó ég sé ekki inn því ég finn bara ekki neina löngun til þess Alla ekki að vera á sama stað en okkur með sama hvað þið finnst það og Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Questa redazione cerca gli animali altri, la loro condizione, il modo in cui vengono considerati, pensati, immaginati, in ogni tipo di dibattito, nelle notizie di attualità, di cultura, economia, medicina, spiritualità. Nella puntata di questa settimana, che è la numero 699, parleremo di orsi, torneremo sulle storie di JJ4 e M49, vi porteremo anche con la LAV all'interno della prigione del Castellar. Parleremo della Nature Restoration Law, una legge in corso di discussione per salvaguardare la biodiversità europea. La Lega Nord ingaggia una sua personale guerra contro il tofu e noi ve ne daremo conto perché c'è addirittura una proposta di legge in ballo. Infine andremo all'estero, per la precisione in Islanda, dove per motivi che tenteremo di definire è stata sospesa la caccia alle balene. In polemica con la proposta della Lega, la ricetta di questa settimana firmata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni porterà sulle vostre tavole un surrogato della carne. E il montaggio musicale, curato sempre dal nostro eclettico chef, ci proporrà musiche islandesi refrigeranti. Speriamo di avervi incuriosito. You fall in love. About a guy you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Torniamo a parlare di orsi, in particolare del destino di JJ4 e M49, i due individui tenuti prigionieri nella provincia autonoma di Trento. Ricordiamo brevemente le loro storie. JJ4 è un'orsa di 17 anni, nata nel 2006 da due capostipiti del progetto europeo Life Ursus, Jurka e Joze, catturati in Slovenia e rilasciati in Trentino tra il 2000 e il 2001. Jurka era già stata considerata problematica, catturata, rinchiusa al Castellar e poi nell'estate 2010 portata nel parco della Foresta Nera per orsi e lupi. Anche alcuni fratelli di JJ4 hanno manifestato dei comportamenti definiti problematici. JJ1, detto Bruno, abbattuto nel 2004 in Baviera e JJ3, spostatosi in Svizzera, venne dichiarato pericoloso e abbattuto nel 2008 dalle autorità federali del cantone dei Grigioni. Sempre in Svizzera nel 2005 fecero scalpore anche le scorribande di JJ2, soprannominato Lumpaz, che poi è sparito senza lasciare traccia. Prima dell'aggressione mortale al runner Andrea Papi, sempre sul monte Peller, JJ4 aveva già aggredito e ferito due cacciatori, padre e figlio. Era il giugno 2020. Pochi giorni dopo l'aggressione, JJ4 era stata oggetto di un'ordinanza di abbattimento del presidente della provincia di Trento, che però era stata sospesa dal Consiglio di Stato su ricorso di associazioni animaliste, OIPA ed EMPA. Nello stesso anno, a settembre, la provincia aveva segnalato un falso attacco a due forestali. Con lei, in questi due episodi, c'erano anche i cuccioli. L'ultima cucciolata di JJ4 risale a fine 2021, oggi quegli orsetti hanno 16 mesi e per gli esperti sono in grado di vivere autonomamente. Dal settembre 2022 il radiocollare, che le era stato sostituito un anno prima per monitorare i suoi spostamenti, ha smesso di funzionare. Dopo la morte di Andrea Papi, che è avvenuta il 5 aprile 2023, l'orsa è stata dichiarata colpevole ed è stata emessa una ordinanza di cattura e di condanna a morte. La cattura è avvenuta alle 23 del 17 aprile 2023, poi il trasferimento nella prigione del Castellar in attesa del responso del TAR sull'ordinanza di abbattimento, che per il momento è stato sospeso, ma un giudizio definitivo sarà reso noto solo il prossimo 14 dicembre. Passiamo ora a M49. M49 è un orso ormai famoso a livello nazionale come Papillon, è un soprannome che gli è stato dato da Fulco Pratesi, presidente del WWF. M49 è salito alla ribalta delle cronache per le due fughe rocambolesche che lo hanno visto protagonista. Catturato nel 2019 perché ritenuto confidente a seguito di diverse incursioni, razzie e predazioni di animali d'allevamento, l'orso è riuscito a scavalcare il recinto a poche ore dal prelievo, avvenuto in Valle Rendena. Come vi sia riuscito è tuttora un mistero, dato che le pareti della gabbia sono di 4 metri e dotate di fili elettrificati. La seconda fuga invece è avvenuta un anno più tardi, nel luglio 2020, quando M49 è riuscito ad abbattere le inferriate della recinzione, ma nel mese di settembre è stato nuovamente catturato. Dopo che una sentenza del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dalla Lega Nazionale per la difesa del cane contro la provincia autonoma di Trento, M49 non ha più speranza di essere liberato. È condannato a una cattività permanente e vive dal settembre 2020 una non vita all'interno della prigione del Casteller, struttura ritenuta totalmente inadeguata per un orso, animale di grandi dimensioni abituato a spostarsi di molti chilometri al giorno. In passato nel centro sono stati ospitati anche esemplari come M57 e DJ3, poi trasferiti rispettivamente in parchi in Ungheria e Germania. Baby, you're the one, you still tell me, you can make me whole again. Abbiamo fatto un excursus, abbiamo ripassato le storie di GG4 e M49, entrambi carcerati nella prigione del Casteller, perché dopo molte richieste, la prima delle quali fatta addirittura inizio aprile, subito dopo la cattura di GG4, l'associazione animalista LAV ha ottenuto l'autorizzazione dalla provincia di Trento ad accedere al Casteller per verificare le condizioni di detenzione dell'orsa GG4, così come di M49, che è recluso da più anni. A entrare nella prigione del Casteller è stato Massimo Vitturi, responsabile dell'area animali selvatici dell'associazione LAV, Lega Antivivisezione. Sentiamo il suo resoconto. Il 20 giugno noi di LAV siamo riusciti finalmente ad entrare all'interno del Casteller, l'area forestale in provincia di Trento che al momento rinchiude nel suo recinto l'orso M49 da oramai un paio d'anni e l'orsa GG4, quella protagonista del tragico incidente con Andrea Papi. Siamo entrati dopo reiterate richieste e finalmente abbiamo avuto questa autorizzazione. Abbiamo visto l'orso M49, l'orso c'è, si è fatto vedere, era molto incuriosito della nostra presenza, eravamo 8 persone, molto incuriosito, annusava l'aria, si rivolgeva verso di noi, si è alzato anche sulle zampe posteriori proprio per capire meglio chi fossimo e a un certo punto si è anche incominciato ad irritare, tant'è che ci siamo allontanati dalla sua zona. GG4 invece non l'abbiamo vista, probabilmente perché è nascosta nella boscaglia che è all'interno del suo settore, ma siamo riusciti a vederla nei filmati della fototrappola che ci hanno fatto vedere i forestali risalenti a poche ore prima. Quello che abbiamo visto conferma quello che già sapevamo, ovvero che il Casteller non è un luogo adatto per detenere degli orsi, tantomeno a lungo termine come l'orso M49 e come è previsto poi per GG4. Quegli animali possono stare in quel luogo solamente per brevi periodi di tempo, solamente per questioni legate magari ai motivi sanitari, per poter recuperare un eventuale incidente e poi essere rimessi subito in natura. Sostanzialmente ogni area del centro del Casteller ha una superficie di circa 2500 metri quadri. Si tratta di un'area a sgambamento cani, non certo un'area dove possa vivere un orso. Per questo noi abbiamo ancora richiesto con ancora più forza che si dia subito avvio al programma di trasferimento dell'orsa GG4 che noi abbiamo già depositato nelle mani del presidente Fugatti perché si possa avviare questo progetto di trasferimento che comprende anche tutte delle fasi propedeutiche e quindi non prevede che l'orsa possa essere spostata dall'oggi a domani. Per esempio, bisogna inoculare il vaccino antirabico, il microchip, ottenere le autorizzazioni dal nucleo CITES, quindi ci sono delle operazioni che devono essere fatte. Per cui più tempo passa, peggio è per l'orsa che è costretta in quel posto che, ripeto, è inadeguato dal punto di vista dimensionale. E noi siamo in attesa ora di un riscontro da parte della provincia di Trento per avere informazioni più precise per il trasferimento di JJ4. La porteremo nel rifugio in Romania che abbiamo individuato e che abbiamo già presentato e che già ospita alcuni orsi provenienti dalla natura e che ha recinti che sono decine di volte più grandi di quelli presenti al Casteller e recinti che peraltro possono essere messi in relazione uno con l'altro, quindi tramite delle aperture, quindi recinti sono in comunicazione, possono avere quindi sommare la loro superficie e diventare quindi ancora più ampi per gli orsi. Messa in salvo JJ4, ovviamente poi la nostra intenzione è di non abbandonare M49 e quindi rivolgerci anche a lui sperando di trovare una sistemazione più adeguata. Il 5 giugno scorso, quando è stata celebrata la Giornata Mondiale dell'Ambiente 2023, l'associazione LIPU è uscita con un comunicato sul rischio bocciatura della Nature Restoration Law, la legge europea per il ripristino degli habitat naturali minacciati dell'Unione, in discussione ora al Parlamento europeo. Una parte fondamentale della strategia europea sulla biodiversità è a serio rischio, sotto i colpi di lobby e parte della politica, ha scritto l'IPU nel suo comunicato. Ma perdere questa occasione sarebbe un errore quasi fatale. Da qui il nostro appello ai vertici europei e a tutti i parlamentari: sostenete la legge. A livello globale, il 75% delle terre emerse e il 66% degli oceani sono gravemente alterati dall'attività umana. Ciò nonostante sono state molte le lobby contrarie al provvedimento che hanno spinto una parte del Parlamento europeo a bocciare due volte questa legge. La consapevolezza della forte crisi della biodiversità globale ed europea però ha avuto la meglio e la legge è stata approvata a maggioranza dal Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea, nonostante il voto contrario del ministro dell'Ambiente italiano Pichetto Fratin. L'iter però non si è concluso. Il 27 giugno la legge passa in Commissione Ambiente dell'Europarlamento e poi verrà sottoposta all'Assemblea plenaria. Noi abbiamo chiesto un commento a Danilo Selvaggi, direttore generale della LIPU BirdLife Italia. Ricordiamo che LIPU è acronimo di Lega Italiana Protezione Uccelli. La Restoration Law è una proposta di legge europea, in realtà tecnicamente una proposta di regolamento che ha valore di legge per tutti gli Stati membri e che prevede una grande opera di restauro, di ripristino degli habitat naturali di tutta Europa, degli ecosistemi di tutta Europa che sono stati nel corso del tempo anche fortemente danneggiati. È una proposta di legge che si inserisce nel contesto del cosiddetto Green Deal europeo. Che cos'è il Green Deal? È il pacchetto di norme ambientali che la Commissione europea nel 2019 ha proposto, ha presentato, rendendosi conto non solo della gravità della crisi ambientale, ma anche del fatto che tutti i programmi ambientali precedentemente assunti hanno dato, diciamo, risultati molto inferiori alle attese. Così la Commissione europea dice, afferma la necessità di cambiare passo, presenta questo pacchetto di programmi ambientali, dal clima all'economia circolare, eccetera, al cui interno ci sono appunto i programmi per la biodiversità, la nuova strategia sulla biodiversità al 2030, a cui è legata per l'appunto la Nature Restoration Law, cioè questa legge, questa grande legge per il restauro della natura. È una legge che, come dicevo, prevede il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi minacciati, le zone umide, i fiumi, le praterie, le foreste, il mare, gli ambienti marini, le città, riportare il verde nelle città e tutto questo con grandi benefici per la biodiversità, per le specie in declino, pensiamo agli uccelli, ma anche agli insetti impollinatori che soffrono moltissimo, soprattutto in territorio, in terreno agricolo, in ambito agricolo, ma questa legge porterebbe grandi benefici anche per le società umane in termini di adattamento ai cambiamenti climatici, di territorio più sano, più in salute, quindi meno soggetto ai disastri ambientali, alle alluvioni, ai problemi idrogeologici, grandi benefici in termini di capitale naturale, cosiddetto capitale naturale, cioè i servizi ecosistemici che con una natura più sana e rigenerata sono certamente migliori per noi. E poi grandi benefici anche in termini psicofisici. Diciamo, di benessere generale per le persone, perché vivere in città più verdi, vivere in un territorio dove la natura è in buona salute, in buone condizioni, rappresenta, diciamo, uno scenario che ci fa stare meglio, ci fa stare molto meglio. How does it keep getting better? Every day I'll find some new way to grow. The time we spend together. Un'opera straordinaria, una legge e un programma mai visti prima, davvero senza precedenti, che però trovano anche l'opposizione di alcune lobby, soprattutto legate all'industria del legname, all'agricoltura industriale, alla pesca industriale, che vedono appunto in questa opera di ripristino della natura un freno all'economia, un freno, diciamo, agli interessi specifici. La LIPU sta lavorando moltissimo con tutta la Federazione Internazionale di BirdLife International, moltissime organizzazioni lo stanno facendo e noi chiediamo a tutti i cittadini, a tutte le persone di seguire questo iter, di condividere le notizie e di sostenere e convincere la politica che questa è veramente la strada giusta per la natura, per la biodiversità e per le comunità umane. La Lega, il partito di Matteo Salvini, vuole vietare quel cibo vegano il cui nome richiama la carne. Dunque l'intenzione sarebbe quella di multare chi vende la bistecca di seitan. Secondo la Lega, i produttori sfruttano la notorietà della carne per convincere i consumatori a comprare prodotti vegani come la bistecca di tofu o il prosciutto veg. Per difendere il povero consumatore vittima di plagio, la Lega ha presentato alla Camera una proposta di legge che impedirebbe di usare nomi come bresaola di seitan o prosciutto veg, con pene pecuniarie fino ai 7.500 euro. La prima firma della proposta di legge è del deputato Mirko Carloni, che ha parlato di inganno per i consumatori. Insomma, la carne è carne, la bistecca è carne, il prosciutto pure, la bresaola idem, il salame non ne parliamo. Anche se poi andrebbe risolto il problema del salame al cioccolato, che si troverebbe tra due fuochi incrociati, pezzo della tradizione o mistificatore di un prodotto animale? Ai posteri l'ardua sentenza. Nella proposta di legge i firmatari sostengono che stabilire l'esclusivo uso dei nomi propri della carne e delle sue preparazioni ai soli prodotti contenenti proteine di derivazione animale è un'operazione di giustizia sociale. Vietato, insomma, chiamare prosciutto qualcosa che non è fatto di maiale. Nell'articolo 3 si legge: per denominare un prodotto trasformato contenente proteine vegetali è vietato l'uso di denominazioni legali riferite alla carne, a una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne. Ma è anche vietato l'uso di riferimenti a specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia o a un'anatomia animale. Infine, è vietato l'uso di terminologie specifiche della macelleria, della salumeria, della pescheria o nomi di alimenti di origine animali rappresentativi degli usi commerciali. Quindi, in caso di detenzione, vendita o distribuzione anche gratuita di prodotti VEG denominati come carne, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 7.500 euro. Dopo la battaglia contro la carne sintetica, quindi la destra si scaglia anche contro i prodotti vegani, per non ledere l'onore del salame. A noi però, che siamo una redazione manifestamente animalista, antispecista e vegan, sta a cuore l'onore dell'ambiente, l'onore del maiale, quello della gallina, del vitello e del salmone. Per noi la scelta veg è il futuro, per i più diversi motivi, il primo dei quali è sempre e comunque un motivo di giustizia. Molti di voi potrebbero aver seguito la serie sudcoreana Avvocata Wu e potrebbero essere rimasti colpiti dalla profonda conoscenza e passione di Wu per balene, megattere, delfini, beluga e orche. Tra le varie scene ce n'è una durante la quale la giovane avvocata porta il suo amico a manifestare davanti a un parco acquatico per la liberazione dei cetacei sfruttati al suo interno. La giovane avvocata autistica è letteralmente affascinata dai comportamenti sociali di questi mammiferi, che la scortano nella sua immaginazione, nuotando tra le nuvole e illuminandole il volto quando le indicano la soluzione più appropriata di ogni caso. L'ingrediente animalista ha sicuramente contribuito al successo di questa serie. Siamo sul tema dei mammiferi marini perché c'è una notizia che riguarda l'Islanda. L'Islanda ha sospeso per 3 mesi la caccia alle balene, fino alla fine di agosto, in nome del benessere animale. Secondo il ministro dell'alimentazione islandese, Svavar Sdottir, alla fine potrebbe essere applicato anche un divieto totale. Ho preso la decisione di fermare temporaneamente la caccia alle balene fino al 31 agosto, ha dichiarato Svavar Sdottir. Se il governo e i concessionari della caccia non sono in grado di garantire i requisiti di benessere, secondo la legge islandese sul benessere degli animali, questa attività non ha futuro. Hvalur, l'ultima compagnia di caccia alle balene attiva nel paese, ha annunciato in precedenza che questa stagione sarebbe stata comunque l'ultima, a causa del calo dei profitti. La stagione della caccia alle balene in Islanda va da metà giugno a metà settembre e quindi probabilmente dopo agosto non riprenderà. L'Islanda, la Norvegia e il Giappone sono gli unici 3 paesi che consentono la caccia alle balene, insieme alle isole Faroe, un territorio indipendente della Danimarca. Andiamo a vedere quante balene vengono uccise ogni anno in Islanda. Le quote attuali consentono di uccidere ogni anno 209 balenottere comuni, il secondo mammifero marino più lungo dopo la balenottera azzurra, e 217 balenottere minori. Ma le catture sono diminuite negli ultimi anni, a causa del calo della domanda di carne di balena. Infatti, dal 2019 il Giappone è tornato a praticare la caccia commerciale alle balene dopo 30 anni di pausa. E la domanda di carne di balena islandese è diminuita drasticamente. Va anche aggiunto che la caccia è diventata più costosa, anche a causa dell'estensione della zona costiera di divieto di pesca, che obbliga le baleniere a spingersi più al largo. Forse le motivazioni vere sono queste, cioè sono di tipo economico, ma le istituzioni preferiscono giustificare la loro scelta millantando motivazioni di tipo etico. C'è infatti anche la questione del consenso e la maggioranza della popolazione disapprova questa pratica. Secondo un recente sondaggio, il 51% della popolazione islandese si oppone alla caccia alle balene rispetto al 42% di soli 4 anni fa. Secondo un rapporto dell'autorità alimentare e veterinaria islandese, il tempo necessario per uccidere una balena viola la legge del paese sul benessere animale, che in caso di sfruttamento economico prevede un'uccisione indolore. Un rapporto indipendente pubblicato il mese scorso dall'autorità alimentare e veterinaria islandese, commissionato dal ministro Svavar Sdottir, ha rivelato che alcune balene uccise durante la caccia hanno impiegato fino a 2 ore per morire. Il 41% soffre immensamente per una media di 11 minuti e mezzo. I video recentemente diffusi dall'organizzazione hanno rivelato queste lunghissime agonie dei cetacei, delle quali ormai c'è una generale consapevolezza, anche grazie all'enorme lavoro di informazione che negli anni passati ha svolto l'associazione animalista Sea Shepherd, che si è battuta coraggiosamente per anni contro la caccia illegale giapponese alle balene. Dipenderà da noi, dalla nostra capacità di denunciare la crudeltà di questa pratica e dall'intensità del nostro dissenso, il futuro di questi splendidi mammiferi marini. Anche questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà. In polemica con la proposta della Lega, la ricetta della settimana porterà sulle vostre tavole un surrogato della carne. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La Lega e tutti i legaioli sono preoccupati che i prodotti vegani ingannino i cittadini, giocando con l'assonanza dei nomi dei prodotti con quelli di origine animale. Si sa che io sono pacifico e distante da polemiche e provocazioni e per questo oggi vi racconto la ricetta del prosciutto crudo di riso, con la speranza che un pezzettino gli vada di traverso assieme al veleno e al livore che spesso ci fanno respirare. Gli ingredienti per 4 persone per il crudo di riso e popone sono, per la marinatura, 50 ml di aceto di mele, 50 ml di acqua, 50 g di zucchero di canna, 3 cucchiai di salsa di soia, 2 spicchi di aglio, mezza cipolla, uno scalogno, un cucchiaino di capperi, un cucchiaino di semi di lino tritati, un pezzetto di alganori, un cucchiaino di peperoncino piccante in polvere, un cucchiaino di pepe nero, un cucchiaino di tamarindo e un chiodo di garofano macinato. Per il crudo di riso, 8 foglie di riso, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, olio extravergine di oliva e un popone. Iniziate preparando la salsa della marinatura. Mettete l'alga nori in ammollo nell'acqua, a parte sbucciate l'aglio, la cipolla e lo scalogno. Mettete tutti gli ingredienti in un mixer e frullate fino ad ottenere una salsa liscia e non molto densa. Mettete il tutto in una casseruola e fate cuocere a fuoco medio per 5 minuti. Quindi togliete dal fuoco e fate intiepidire. Filtrate la salsa e fatela riposare in frigorifero. Adesso terminate la marinatura stemperando il concentrato di pomodoro con la salsa raffreddata e un cucchiaio di olio extravergine e lasciate riposare per una mezz'oretta a temperatura ambiente. A parte pulite il popone dai semi e togliete la buccia, tagliatelo a fette. Immergete fogli di carta di riso nella marinatura per circa 5 minuti, scolateli dal liquido e stendete ogni foglio su un tagliere. Avvolgete ogni spicchio di popone con un foglio di riso, quindi disponete ogni involtino su di un vassoio sul quale avete passato un filo di olio extravergine sul fondo e servite. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina, l'ultimo edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Non dimenticate gli altri animali quando compilate la vostra denuncia dei redditi. A voi non costa niente donare il 5 per 1000 a una realtà che si occupa di loro, ma per loro può fare la differenza. Noi consigliamo Vita da Cani, Lipu, Lav, il Centro della Ninna, Liberi di Volare di Trieste, Essere Animali, il Parco dell'Abatino in provincia di Rieti e poi Ipoasi o Agripunk. E stiamo lasciando indietro molte altre realtà importantissime semplicemente perché tutte non riusciamo a menzionarle. Sulla nostra pagina metteremo un post con una lista più completa. Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. La nostra redazione è composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarot, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 700 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.